via anche un po' per colpa mia. Viva il gas, il mio gas. Non è benzina, no, no. E non inquina. Il mio gas, è biogas. Non è benzina, prevede che si conservi tutto il gas che in te. Basta un tubo fino al motore, fine del CO2 e niente più. Viva il gas, il mio gas. Non è benzina, è medicina. Ma un po' già non è benzina.